volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore. E tutto intorno sembra aver trovato un senso che ti invade e mi assale. La paura di sfiorarti nelle mani incontra il mio sudore. Io non posso fare altro che ammirare come un uomo aspetta passi il temporale purché torni il sole. Nel mondo di con tutti che ci sia poca bellezza da salvare e da rubare, non sanno mica quanta ne nasconda questo mio stupore. A tratti mi tradisco e mi lascio andare, vorrei gridare senza alcun pudore, è lei che ha rubato il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro, non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.